Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno e bentrovati su Mix 24. Oggi è la giornata della memoria delle vittime della Shoah. Nella seconda parte, dopo la pubblicità, dedicheremo una puntata speciale ad Auschwitz, all'attuazione del piano di sterminio del Terzo Reich dal 1940 fino alla fine della guerra. Ma intanto oggi è anche l'anniversario della morte di Luigi Tenco. Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio di 50 anni fa, durante il 17° Festival di Sanremo, viene ritrovato morto all'Hotel Savoy di Sanremo. La sua canzone Io, tu e le rose non viene ammessa alla finale del festival, un atto di protesta contro questa esclusione, scrive Tenco, lo stesso Tenco nel suo biglietto d'addio. Si parla subito di suicidio, ma a distanza di anni i molti dubbi sulle cause della morte di Tenco porteranno alla riapertura delle indagini, che confermano però l'iniziale ipotesi del suicidio. Gino Paoli così ci ha parlato della morte di Tenco. Della storia di Tenco è stata scritta la parola fine, secondo lei, o no? Sì, assolutamente. Ma no, era scritta nel momento che è successa, che si è suicidato. Sì, no. Cioè noi sapevamo benissimo perché si era suicidato, tutti, cioè, quanti, perché era impasticato fino al collo, ah. E con delle pasticche, delle cose che avevano scoperto lui e Frezza e Piero, l'italiano, in Svezia, dove praticamente delle droghe nuove. Non è anche una droga, era una buffonata, nel senso che lì. Ma e questo l'ha spinto a spararsi? Eh? Sì, perché ti sdoppiava. Ah, okay. Questa cosa che prendevi, che poi è facile perché era Pronox, che è una vabbè, insomma, un sonnifero con whisky. Ah, okay. Comunque tutti questi artisti che abbiamo sdoppiava e quindi non eri consapevole. Ti guardavi vivere, okay. Poche parole. Luigi Tenco era un giovanissimo cantautore della scuola genovese, insieme appunto a Gino Paoli, De André, Bruno Lauzi, uno dei cantautori più originali della nostra canzone d'autore. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare. La notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni. La notte parlare d'amore. Ed ora, come tutti i venerdì, vi lascio con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Thank God it's... Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori, come stai? Bene, grazie. Senti, quando è l'ultima volta che sei stata serena? No, Ale, io non me lo ricordo neanche più. Non mi puoi poi parlare di serenità a gennaio? No, ma non hai capito. Molto no. Meglio così. Perché oggi, guai a chi sta sereno. Non so se hai letto i giornali o anche solo sfogliati i titoli. La Raggi, la tua sindaca. La mia, solo mia. Sotto accusa per abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, ha detto... sto serena. Ma perché lei è una persona appunto serena e tranquilla, però c'era stato già qualcun altro che aveva detto una cosa simile, te la ricordi? You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, a blood of three. Goodness gracious, great balls of fire. Diamo un hashtag. Enrico, stai sereno. Caro Presidente del Consiglio, vai avanti e fai quello per cui sei stato votato. Nessuno ti vuol prendere il posto, vai avanti, fai quello che devi fare, fallo. Un hashtag, Enrico stai sereno. Ecco appunto, allora, abbiamo capito che a star sereni si sbaglia sicuro, perché ben vengano le angosce. Forse basta non e dirlo. Ben vengano gli attanagliamenti. Però ti voglio dire una cosa, ci sono delle ottime prospettive di stare davvero, veramente tutti quanti sereni, perché, e questa volta la ricerca di Cambridge te la voglio citare io, sì. Questa ricerca dice che nel 2030 finiranno le relazioni sentimentali e soprattutto finirà il sesso. Finalmente. Sei sicura che era il 2030? Sì, sì. Hai letto sì, bene? Sì, la... sì, sì, perché? Perché? No, perché è da mo che sto serena. E ah, tu, vabbè, e tu pure. Senti, Cravetto, oggi comunque serenamente ti stupirò, perché non ti parlo di un libro, ma di cinema e televisione e della storia del nostro paese. Lo schermo, grande scherno, la rassegna che racconta come il cinema italiano ha raccontato la televisione, appunto. Promossa dalla Cineteca Nazionale Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, si terrà al Cinema Trevi di Roma dal prossimo venerdì 3 febbraio fino a martedì 7. 4 giorni di proiezioni per scoprire che da Fellini a Antonioni, da Petri a Monicelli, da Risi a Moretti fino a Muccino e Garrone, tutti i registi italiani più importanti hanno ironizzato, sbeffeggiato, demonizzato la televisione italiana. La rassegna è completamente gratuita ed è curata da Luca Martera, documentarista e media maker tra Italia e Stati Uniti. Luca, intanto, quali sono i primi film italiani che parlano di televisione? Beh, il primo in assoluto è di epoca fascista, quella cosiddetta dei telefoni bianchi. Si tratta di Mille lire al mese, film del 1939 che a guardarlo oggi si rimane davvero sconcertati, perché si immagina la televisione italiana, quella che poi diventerà. Perché ricordiamolo, quando è diventata la televisione italiana? Ebbene, le prime trasmissioni regolari della RAI risalgono a gennaio del 1954, ma non dimentichiamo che la televisione, così come la conosciamo, è nata in Inghilterra, BBC, 1936. Qual è quindi questo primo esempio di cinema che parla di televisione e che lo racconta così in anticipo? Ascoltiamolo. Eccolo. Trasmettiamo un primo esperimento di televisione, il varo del piroscafo Egeria ed una scena dalla rivista Eva. Migliaia di magistrati, milioni di giornate lavorative hanno cooperato alla creazione di questo colasso dei mari. Ultima espressione della... Ma che state facendo? Avete innestato la rivista? Cosa? Ma il 2, non il 4! Ma il 2! Ma no, è il 4! Ah già, il 4! Contento! Silenza! La televisione avrà un avvenire? Ah, questa sera mi è sembrato molto scuro. Molto scuro. Quello che abbiamo appena sentito è appunto un estratto dal film Mille lire al mese, e tocca fare una piccola spiegazione. Si tratta già di una commissione davvero divertente tra politica e spettacolo, perché c'è l'intromissione, quindi il guasto tecnico, il blackout che crea panico, e nelle immagini del film mostra la dissolvenza incrociata tra il politico comiziante e le ballerine. Vi ricorda qualcosa? Luca Martera, che altre curiosità hai scoperto? Raccontaci. Intanto, questi film italiani che raccontano la televisione sono anche un divertente, ironico spaccato, quasi una controstoria d'Italia, perché nei film, non dimentichiamo, si poteva osare di più e dire quello che in genere quotidiani e televisione non potevano dire. Un curioso reperto è i Teddy Boys della canzone, film del 1960 che parla per la prima volta di una TV clandestina libera. Buonasera, signor direttore. Lei che controlla tutte le trasmissioni e dice questo sì, questo no. Mi vede? Mi vede bene, signor direttore? Mi sente bene, signor direttore? Quando io sono venuto da lei, volevo farle vedere che io potevo farmi vedere da lei come e quando volevo. Ha capito che io non la posso vedere? Il che vuol dire che io posso inserirmi in qualsiasi trasmissione e lei non può farci nulla! Nulla! Il film è abbastanza stupidino. Luca Martera, addirittura. È anche bruttarello, anche se c'è Mina in grande spolvero. La voce che avete appena sentito è quella di Paolo Panelli, comico naturalmente in auge all'epoca su Mamma Rai, che qui però si prende una piccola rivincita, perché è il fondatore di TeleX, la prima TV clandestina che trasmette da una stalla. Anche questo vi ricorda qualcosa, lo farà Benigni nel 76 in Televacca, e che si rivolge così al direttorissimo generale della Rai. Cos'ha di particolare questo film? È che è ispirato a un fatto di cronaca. Ovvero? Nel 1957 ci fu il primo tentativo di creare una TV libera in Italia. Nel 57? Sì, quindi molto tempo prima di Telebiella. E addirittura fu ribattezzata Televisione Libera, TVL. Il factotum di questa operazione fu un emissario della RCA, la grande industria discografica americana, il quale andò... Come si chiamava questo signore? William Burns, sì. In odore di CIA. Addirittura, Burns. Sì, perché poteva avere solo a disposizione grandi mezzi e servizi e servizietti per installare all'ultimo piano del Pirellone di Milano la sede dell'emittente, con attrezzature di ultimissima tecnologia fatte arrivare apposta da New York. Ma cosa succede? Com'è andata? La cosa procede per qualche anno. Teniamo presente che in Italia è ancora illegale per la legge. La RAI ha il monopolio e non è prevista una concorrenza privata. Nel 58 viene creata questa sede di questa emittente grazie con il referente italiano del figlio di Giuseppina Crespi. Quindi sì. Editore del Corriere della Sera. E nel 59 è tutto pronto per l'inaugurazione. Addirittura si convoca dagli Stati Uniti Frank Sinatra. Per una grandissima inaugurazione. Ma che succede? Succede che c'è una soffiata e si sa che il Ministero delle Poste sta per far scattare le manette e intanto procede a sequestrare tutto il materiale con la cera lacca, come si faceva all'epoca, e quindi dell'esperimento non se ne fa nulla, ma non si sa come William Burns riesce a rientrare negli Stati Uniti portando con sé tutte le attrezzature e non si capisce come abbia fatto a trasportare dall'ultimo piano del Pirellone di Milano. Tutto quanto, aveva grandissimi contatti con una grandissima agenzia di trasporti. Sicuramente, non solo con un'agenzia di trasporti, ma anche con un referente italiano molto particolare, che è il factotum romano di questa operazione, il cui nome è Umberto Ortolani. Umberto Ortolani diventerà noto alle cronache per essere il braccio destro di Licio Gelli, quindi P2, e questo esperimento di TV libera sarà uno dei punti centrali del piano di rinascita nazionale. Signor Presidente del Consiglio, lei pensa che anche in queste prossime elezioni del 72 si parlerà di schede occultate, di brogli elettorali? No, sì, penso di poterlo escludere nel modo più assoluto. Anzi, in questo momento sta sbarcando a Civitavecchia un grazioso dono del Presidente degli Stati Uniti al nostro Capo dello Stato. Siamo dunque una volta di più nelle mani, o meglio, nelle fauci di un mostro di prezza marca American plutocratica. Quello che abbiamo appena sentito è un estratto di dialogo dal film Colpo di Stato di Luciano Salce del 1960. Che io ricordo Salce per un'altra cosa, in realtà, per altri due film, due capolavori. I primi due capitoli di Fantozzi, eh sì, certo. Eh sì. Ma Salce era una personalità complessa e sottovalutata del cinema italiano. Lui si faceva satira e si divertì con questo film molto raro, presente in rassegna. La rassegna, ricordiamolo, Piccolo schermo, grande scherno, curata da Luca Martera. L'ingerenza russa e americana nelle votazioni italiane. In questo caso fonte di tutti i guai è un cervellone elettronico Made in USA che altera il voto. Tu, a proposito degli Stati Uniti, sei appena tornato. Tu sei tornato da Los Angeles, dove hai studiato le nuove tendenze della televisione, la televisione del futuro. Mi racconti quali sono le tue scoperte più importanti? Sì, lì è già presente, qui da noi forse sarò... Cosa arriverà allora? Cosa arriverà? Netflix la conosciamo già tutti, ma quello che di interessante è come Netflix effettivamente crea programmi e tendenze per il futuro attraverso i famigerati big data. Big data, certo. Cioè la profilazione scientifica degli utenti, consumatori, attraverso i loro gusti culturali, in questo caso legati a quello che vorrebbero vedere. Io ho avuto la possibilità di incontrare un dirigente Netflix, il quale mi ha fatto una dimostrazione. Pratica. Che ti ha detto? Mi ha chiesto, dammi una parola chiave, un tema che ti piacerebbe, ti interessa, ti piacerebbe vedere attraverso una serie TV, un documentario. E io gli ho detto feticismo, la prima cosa che mi è venuta in testa. È indicativo, eh? Sì, immagino. E lui a quel punto mi ha, picchettando sul suo computer, mi ha fatto vedere l'utenza potenziale, di lingua inglese naturalmente, a livello mondiale, interessata a questo argomento. E E quant'era? Era almeno 5 milioni. Ah. Dopodiché mi ha chiesto, dammi un'altra parola chiave. Legata a questa. Sì. E tu hai detto? Piedi. Piedi. Coerente. A quel punto la nicchia si è ristretta ad 1 milione. Eh beh, siamo sempre un bel pubblico. Ma qual è stata il suo commento? Ma un'operazione di un documentario low cost da $100,000 per un pubblico mondiale di 1 milione si può fare, ci stiamo. Quindi Luca Martera profilano nel dettaglio un pubblico e questo pubblico lo riescono anche ad orientare? Sì, in qualche modo, perché comunque il pubblico interessato vedrà in questo documentario oggettistica di pelle certo. Che si trasformerà magicamente anche in una call to action, cioè andatelo a comprare. Sostanzialmente l'evoluzione del meccanismo di Amazon che troviamo nello scontrino, che è già in uso da 15 anni, e cioè hai comprato un libro di Bruno Vespa, spero di no, forse ti potrebbe interessare anche Corrado Audios, no scusate. Vabbè. Però questo, sì. Perfetto, come Netflix, hai visto questo, ti potrebbe interessare anche. Poi un'altra tendenza? Beh, l'altra è sicuramente dovrebbero, i dirigenti della televisione italiana dovrebbero preoccuparsi da questo punto di vista, è quella delle grosse aziende che hanno capito che la tecnologia è a basso costo e possiamo farla noi la televisione, possiamo trasformarci noi in emittente, saltando tutta la filiera, cioè i centri media, i concessionari, le emittenti. Noi produciamo direttamente un prodotto coerente con i valori del nostro servizio o sì, quel prodotto, e quindi lo presentiamo noi sul nostro sito, la nostra piattaforma, saltando tutti i canali tradizionali. Questa è già realtà negli Stati Uniti. Quindi il problema ormai è il contenuto, la caccia al contenuto. The content is the king. Grazie Luca Martera, lo ricordiamo, dal 3 al 7 febbraio al Cinema Trevi di Roma c'è la rassegna Piccolo Schermo, Grande Scherno, completamente gratuita per scoprire come il cinema italiano ha raccontato la televisione e anche il nostro paese. La profilazione scientifica degli utenti a me non mi rende zero serena, te lo dico. A parte che l'hai detto benissimo. Vero? Bravissima. Ma perché non l'ho capito? Però perché? Premesso che ormai siamo tutti profilati, poi sai, dipende da come si viene profilati. Profilati a mano? Al bronzo. Come i rigatoni. Oh, i giovani d'oggi valgono poco, gli anziani cosa ci hanno lasciato? Cecilia Nostro, 27 anni, laurea in economia, a fine 2015 insieme ad Alessandro Cadoni e Daniele Scaglia ha creato Friends, una app che in poche parole trasforma ognuno di noi in un potenziale autore di campagne pubblicitarie per grandi marchi. Cecilia, buongiorno, com'è nata l'idea di Friends? Friends nasce quando ci siamo resi conto che le aziende volevano sempre di più trovare un modo carino e creativo di essere presenti sui social per raggiungere i loro clienti, e dall'altra parte le persone abbiamo scoperto essere bravissimi produttori di contenuti, anche le persone che nella vita non fanno i creativi, e quindi ci siamo detti perché non creare un'app, una piattaforma che mette in contatto da una parte le aziende che hanno bisogno di distribuire un pubblico, diciamo, più largo. Sì. Esatto. Senti Cecilia, quindi come funziona? Me lo spieghi con un esempio pratico? Sì, allora c'è un'azienda di pasta fresca, sì, che vuole lanciare un nuovo prodotto, sì, e vuole far vedere che questo tipo di pasta fresca si cucina in un modo alternativo. Chiama noi che facciamo in modo che 2000 persone pubblichino una foto sul loro profilo di Facebook, quindi andando a parlare con tutti i propri amici, rappresentando quel nuovo modo di cucinare quel prodotto. Okay. Quindi in quel modo l'azienda riesce a raggiungere attraverso i nostri utenti tutti i loro amici. Quindi viene dato un brief generico, in poche parole, da un marchio o anche specifico, insomma, un brief anche abbastanza dettagliato. Ok, diciamo. Voi lo mettete online sulla app di Friends. Esatto. E con questo brief specifico sul prodotto viene lanciata come fosse una gara. Sì, esatto, loro incominciano a pubblicare le loro foto sui loro profili. In realtà non è, diciamo così, una gara, perché tutti gli utenti guadagnano i crediti promessi per quella campagna, perché a noi non interessa chi è il più bravo, a noi interessa chi è il più bravo all'interno della sua cerchia di amici, quindi potenzialmente vincono tutti per i loro amici. Ecco, che cosa vincono? Allora, guadagnano dei crediti virtuali che poi vanno a convertire nel nostro e-commerce con delle gift card come Amazon, Zalando, Ryanair, Zara, eccetera, anche i commerce più piccolini. Quindi in poche parole non guadagnano soldi, ma guadagnano come fossero dei bonus. Delle gift card che poi possono utilizzare per acquistare quello che preferiscono. Senti, a quanti utenti siete arrivati su Friends? Siamo più o meno a 100.000 utenti. Li abbiamo presi senza spendere niente di marketing, perché si sono invitati tutti da soli, perché erano contenti di utilizzare l'app e quindi l'hanno fatto scaricare i loro amici, quindi noi più contenti di così non potremmo essere, insomma. Senti, come siete riusciti invece a convincere i primi clienti? Cioè, da chi siete andati e qual è stato il primo marchio, anche senza dirmi il nome, ma almeno il settore che ha creduto in voi? Noi ovviamente eravamo studenti universitari, quindi non è che avevamo grandi conoscenze nel mondo del management, eccetera. Quindi mandavamo delle mail a cui puntualmente nessuno ci rispondeva. Sì. E allora abbiamo deciso di salire in macchina e piazzarci sotto le sedi delle grandi aziende, aspettare che questi famosi marketing manager uscissero per andare a mangiare o per andare a casa, fino a inseguirli e pregarli di darci un feedback e di dirci se nel caso in cui avessimo sviluppato quel prodotto per loro poteva essere interessante. Certo. E uno di queste persone proprio raccattate in quel modo è stato poi il primo manager che ha creduto nel nostro prodotto per un'importante multinazionale di cibo per gli animali. Ma invece per quel che riguarda il finanziamento della vostra app, a chi vi siete rivolti? Allora, il primo finanziamento è stato fatto da un business angel che è innamorato di noi, del progetto, solo da una presentazione, però lui dice sempre che eravamo talmente motivati e convinti che diceva sicuramente qualcosa lo farete, non so se è esattamente quello che state dicendo, perché poi quando uno parte non sa dove arriverà, no? Sa, certo, che c'è un'intuizione, c'è una direzione, però poi nel dettaglio non è detto, non sono già, certo, segnati, esatto. E invece il secondo è un partner industriale che ci ha permesso di crescere tantissimo, di stabilizzare i nostri canali di vendita, insomma, cioè ci ha dato una struttura. Siamo arrivati dal secondo investitore in 7, adesso siamo in 21, quindi insomma, certo, stiamo ingrandendo parecchio. Senti Cecilia, un'ultima domanda: sei entrata a far parte delle prime 100 donne più importanti del settore digital in Italia e hai solo 27 anni. Ecco, sì. Che cosa vuol dire questa classifica e dove ti vedi invece tra altri 2 o 3 anni? Allora, essere questa classifica vuol dire parlare con un sacco di giornalisti, perché che non sempre un bene. No, invece mi piace. No, niente, non vuol dire niente, se non che evidentemente il lavoro fatto con Friends ha un certo rilievo, piace molto, quindi in qualche modo io sono la donna, diciamo, del team, e quindi mi fa molto piacere rappresentare la società. Senti, i prossimi passi invece che avete in mente di fare con Friends, cioè diventerà magari un'app anche per l'estero? Sì, allora quest'anno faremo i primi test internazionali, però non per forza la porteremo all'estero, ma testeremo e poi se ne varrà la pena andremo all'estero, se no cercheremo di consolidarci sempre di più nel mercato italiano. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a te. Cravetto, in fondo questo è un modo intelligente finalmente di sfruttare il narcisismo del web. Tranquilli, traduco la Fiori. Allora, potete tranquillamente continuare a farvi selfie, in più guadagnandoci, l'ho detto più facile. Cravetto, la riconosci questa musica? Bellissima, meravigliosa? Sì, certo. È perché il tema della colonna sonora è Il pianista di Roman Polanski, perché oggi è la giornata della memoria. E allora, proprio per non dimenticare, dopo la pubblicità dedicheremo una puntata speciale ad Auschwitz, mentre con Franco Schipani e Musica e Storia torneremo naturalmente venerdì prossimo. Quindi Ale Cravetto, stai serena. Anche mi raccomando, tu, grazie, mi raccomando. Ci proverò e ciao. Ciao.